vita è un passaggio breve ma intenso. Tutto si sconvolge in un momento, basta un movimento che stravolge il senso e tutto non è più, più come prima e non lo siamo né io né tu. Ma siamo cambiati, ci siamo trasformati per colpa di qualcosa che ci ha sconvolti, per colpa di qualcosa che ci ha sconvolti. Ieri ti avevo visto e non pensavo che sarebbe potuto capitare. Ieri tu c'eri e adesso versiamo lacrime infinite. Come un'onda improvvisa ci ha travolti, quando meno te l'aspetti ti mette in ginocchio ed è difficile rialzarsi, ma si sa la vita è una ruota. Ieri ti avevo visto e non pensavo che sarebbe